Er möchte Herrn Ossola etwas fragen oder etwas zu dem, was Herr Ossola uns vorgetragen hat über Carducci und Graf, etwas beitragen. Quindi adesso su Ossola, sul professor Ossola, sulla relazione del professor Ossola, Bordone mi pare. Sì. Io volevo chiedere ad Ossola, a proposito di questa frecciata che Carducci fa a Giacosa, e se non ritiene, anche io ho l'impressione che Giacosa e Carducci non potessero capirsi sul tema del Medioevo, perché la dimensione nella quale muove il Giacosa, anche se inserita senz'altro in questo sentimentalismo in fondo del secondo romanticismo, però per quanto attiene alla ricostruzione di Giacosa del Medioevo, Giacosa muove, secondo me, appunto in un ambito che è quello molto regionalistico e filologico, di ricostruzione anche filologica, perché appunto Giacosa era amico di Vaira, che era attivista, era amico di D'Andrade, che ha lasciato i monumenti che ha lasciato a Torino, e comunque appunto forse una visione regionalistico-filologica del Medioevo che era molto lontana da queste visioni molto più universali del Carducci. E quindi fosse anche abbastanza facile per il Carducci attaccarlo sotto questo punto di vista. Volevo appunto sapere un po' la tua impressione. Non so se è meglio riunire le domande oppure no, non so questo. Ma forse questa, solo per il fatto che poi so che tu devi partire, per questa soltanto risponderei subito dicendo questo. Da un lato che ti sono molto grato a domanda perché mi permette di inserire una citazione che non ho fatto, e cioè quella di Piemonte, appunto, di Carducci. Cioè, se c'è un esemplare poetico nel quale il Carducci cerchi di unificare, distribuendo nello spazio quello che era il tentativo di unione nel tempo tra il Medioevo, diciamo così, all'eramico e quello sabaudo, è proprio Piemonte, nel quale passa in rassegna appunto la Asti repubblicana e fiera di strage gotica e dell'ira di Federico, restituita dal Carme del Nuovo Alfieri, su risalendo nelle città piemontesi ma anche nelle dinastie fino a Carlo Alberto, unendo quindi insomma l'Asti repubblicana resistente fino a invece l'epopea di Carlo Alberto. Quanto a Giacosa, è vero questo, sono due mondi, ecco, che probabilmente avevano poche possibilità di comunicare. È interessante però che il Carducci, da professore appunto universitario, attaccasse Giacosa in un altro dei suoi passi molto divertenti proprio sul versante filologico, cioè allora quando appunto a quella lettura che ho fatto del caffè appunto fiorentino seguiva tutta una disanima di tipo abbastanza così abbastanza divertente, ecco, nella quale diceva che nella partita a scacchi di Giacosa il Giacosa stesso ha commesso soprattutto errori e spropositi di Medioevo che, se potesse un giorno arrivare a capirli, dalla disperazione e dai rimorsi si affogherebbe nei suoi propri versi martelliani a tre code di aggettivi. È una cosa molto bella perché dice, l'esempio che fa appunto è che, citando la partita a scacchi, la romanza era scritta in lingua provenzale in quel metro monotono, cadenzato ed uguale, e naturalmente mostra come il metro monotono, cadenzato ed uguale sia piuttosto quello dei versi di Giacosa che non invece del metro provenzale, che assolutamente non ha questo ritmo, e va avanti in questo senso. Però è curioso, in cui hai ragione, che in realtà l'attacco di Carducci è del Giacosa della partita a scacchi, quindi della ricostruzione, come dire, proprio più evidente di una di una iconografia letteraria molto logora e non invece, diciamo così, del giacosa regionalista, ecco, che forse non interessava neanche tanto in quella prospettiva al Carducci. Non si prestava al dibattito. Professor, scusate. Io volevo dire due cose, la Ossola e una la signora. Sì, ma forse... Forse grazie. Prima Ossola, vediamo di separarlo quanto possibile. Uno, il Carducci che tu hai presentato, così praticamente il loro, forse dovrà essere integrato dal Carducci traduttore di parte, lo sgabio in museo, allora ci sono anche la seconda. Parli un po' alla gente e non a lui. Il Carducci traduttore del parte, che ha tradotto lo sgabio in museo, l'ha tradotto benissimo, forse la più bella traduzione in assoluto di Carducci, mostra una astrazione molto più forte, una stilizzazione fortissima del Medioevo e addirittura di un Medioevo pre-Stauro, no? Del Medioevo proprio al tipo di Alarico, la Ricci-Gosso, quale lo sforzo in testa un po'. Quindi il Carducci editore di Heine, penso che vada anche contrastato con un Carducci che inventa nella poesia di Prater una, anche in fondo una zeitlosica, una stilizzazione molto forte. Infine un testo che è un po' quasi paradossale ciò che dico, ma un testo che assolutamente va ricordato tra noi, è la partenza del crociato di Visconti di Nostra, dove tutta la situazione si capovolge, nel senso che i nostri amici tedeschi molto probabilmente non conosco, è un testo comico, caricaturale, anche forse bassamente caricaturale, paragoniatico, ma che mostra una reazione alla medievizzazione forzata molto caratteristica, è la parodia del cavallo di un cavallo, crociato che non parte mai. A cavallo di un cavallo. A cavallo di un cavallo. Ho finito. Sì, quella di Platen è veramente una integrazione importantissima, proprio anche per il tipo di, come dire, di ieraticità che viene, riassumo insomma brevemente il contenuto, è che il fiume viene deviato perché il cavaliere, anzi in questo caso appunto l'emblema stesso dell'imperium, possa venire, come dire, tumulato nella sua posizione eretta e di guerra, e c'è una fortissima stilizzazione non consueta così nel Carducci, ecco, questo è molto vero. Andere Fragen an Herrn Ossola? Posso domandare una cosa? Confesso la mia assoluta ignoranza per quello che è aleramico. Sì, la parola sì. Aleramico che lei ha usato spesso, non so neanche che cosa sia. Glielo chiesto, anche lui non lo sa. Sì. Allora, il saggio. No, perché. Scusami. Sì. Allora, è il titolo stesso di questo saggio di Carducci del 1883, si intitola Gli Aleramici, leggenda e storia, ed è appunto la storia di Aleramo e di Alasia come fondatori del marchesato appunto del Monferrato e di Saluzzo. Cioè è una storia che proviene naturalmente dalla tradizione medievale e viene diciamo così radicata tra il marchesato del Monferrato e di Saluzzo, la Liguria e naturalmente questa zona, diciamo così, che in parte franco-provenzale ma in parte anche aperta alla Lombardia, diventa il luogo di incontro delle due civiltà, nel senso che questo viene, per dirla nei termini insomma che avrebbe usato Graf, della morfologia, allontanato perché non abbia appunto ad avere l'incontro con la guerra, poi cresce eccetera, diventa molto bravo, è cuoco a corte, a un certo punto proprio per la sua bravura viene ripresentato all'imperatore e nell'incontro è lì che dice sono appunto germanico ma lombardo di formazione. Ecco, è una storia poi molto complicata, perché c'è anche il momento della prova, ed è stato riutilizzato, evidentemente poteva piacere a Carducci anche una lettura, diciamo, da sinistra, perché c'è tutto il momento della prova, quando loro si allontanano da corte e fanno i carbonai sulla montagna, sul preapennino piemontese, aiutando questi carbonai a togliere il carbone, e lì hanno figli, eccetera. Quindi con una lettura a corte, l'uscita dalla corte, l'ingresso appunto in una economia rurale montana, ma anche la sanità di queste cose che naturalmente piaceva al Carducci, pensiamo comune rustico, eccetera, e poi il ritorno invece dopo tutte le prove alla corte, la riassunzione del regno e così via. Quindi è poi una zona strategica, perché comprende appunto sia la cultura franco-provenzale sia il contatto appunto con la Longobardia e così via. Allora questo è solo il nome, con naturalmente un sacco di false etimologie. Sarebbe anche molto bello avere una piccola sezione di dibattito in questo colloquio, in questo seminario, sulle false etimologie per aggiustare le tradizioni appunto nazionali e mitologiche. Ora lì c'è tutta una parte nella quale naturalmente il Carducci filologo si diverte molto sul modo con cui i piemontesi hanno aggiustato questo Ale Ram eccetera, ma ve le risparmio appunto, perché ci vorrebbe tra tante lingue aggiungere anche il sostrato piemontese, mi pare eccessivo. C'è cosa quando? Occorre autoconsiderazione, un problema che poi può essere anche riferito alla questione della signora interessantissima, in che modo possa essere subito, anche se diciamo, i materiali che hanno proposto nelle loro interventi hanno avuto una sorta di inversione cronologica, quindi ci hanno portato ad un'utilissima ginnastica mentale insieme a loro. Il problema è questo, mi pare giustificato soprattutto dall'ampio riferimento che tu hai fatto, Orsola, al caso Carducci, cioè a questa modalità molto complessa di rapporto con il Medioevo sul piano ideologico, sul piano culturale, e a certi elementi questi veramente di sostrato e di scelta poi di iniziativa veramente carducciana, che riassunta un po' in tutta questa sua lunga carriera di storico, filologo e poeta. E il problema è questo, il problema del rapporto tra l'irruzione delle forme del Medioevo nella cultura ottocentesca e il loro correlarsi alla forma culturale dominante, forte, cioè quella del classicismo. Mi pare che sia un elemento di correlazione che nel caso di Carducci è assolutamente scoperto e praticato in tutta la sua carriera, che diventa più sfumato e contraddittorio, anche ambiguo, diciamo anche più moderno nel caso di Graf, e che è assolutamente esclusivo nel caso di tutti i soggetti della cultura del primo ottocento tedesco, come del resto lei esplicitamente faceva, non fatto riferimento non soltanto a Schlegel ma anche poi al nostro Crisostomo. Quindi in che modo funziona questo rapporto con il Medioevo sul piano dei grandi paradigmi culturali, di che cosa scegliere e anche poi praticare segmenti singoli, attiva una dinamica che di conflitto, consapevolmente, in alcuni casi progettualmente di conflitto e di scelta. Ecco, a me viene un'osservazione che può essere documentabile su tanta parte delle citazioni che Orsola ci ha prodotto, come su tante immagini che abbiamo visto, di una sorta di difficoltà della cultura ottocentesca in termini proprio di paradigmi culturali, mentali, dal punto di vista antropologico, diciamo, a pensare visivamente, figurativamente il Medioevo, cioè a dargli un vestito, a dargli un'immagine, eccetera. Ora questo è il problema, perché il rapporto con il Medioevo passa naturalmente, fisiologicamente, attraverso il rapporto con il classicismo. Questa è una domanda molto importante e molto complessa. Che in qualche modo riguarda anche il nostro modo di leggere il Medioevo. Del resto, ecco, obbliga a un richiamo fondamentale, soprattutto per gli anni 70, 71, 72, e che è quello di De Sanctis. Cioè Carducci aveva benissimo davanti quello che era il panorama della letteratura italiana, come egli stesso doveva in qualche modo confrontarsi con l'interpretazione del De Sanctis. Ora, la difficoltà di leggere il Medioevo è anche la difficoltà di leggere il Rinascimento, nel senso che, come nella storia della letteratura italiana del De Sanctis, una cospicua parte di quello che noi consideriamo a larga misura Rinascimento è condannata. Si pensi alle pagine durissime che dedica al Polengo come Medioevo in putrefazione, nella crassa risata del Polengo è il Medioevo in putrefazione, e come sostanzialmente, a parte appunto, diciamo così, il sorriso ariostesco, l'unico vero Rinascimento che interessa al De Sanctis è quello di Machiavelli, così pure la difficoltà di leggere il Medioevo, e dunque diciamo simmetricamente e contrastivamente quella di leggere il Classicismo, e anche nel Carducci. Nella sua attività di critico, accanto al grande commentario del Petrarca e della poesia delle origini, dello Stil Novo, eccetera, occupa una quota considerevole, soprattutto una parte dell'umanesimo e del poliziano. Ma, come dire, è più difficile anche qui trovare un... c'è il problema della periodizzazione, ma anche il problema del reciproco confronto e della reciproca commistione, e di come vanno a finire appunto Medioevo e umanesimo, Medioevo e Rinascimento, che non è soltanto un problema di periodizzazione, ma anche di scelta degli statuti, diciamo così, politico-culturali, perché evidentemente il problema di rispetto all'unità nazionale, definire il significato delle signorie, o diciamo così, dell'evolversi del comune in strutture di altro tipo, che erano precisamente quelle dalle quali si usciva e che si voleva connotare negativamente, diciamo così, corrode o mette in difficoltà tanto la lettura, come dire, del Medioevo e dei suoi limiti rispetto al Rinascimento, tanto del, diciamo così, della durata o della circoscrizione del Rinascimento rispetto alla lunga durata del Medioevo. Sarebbe interessante anche a questo riguardo vedere come parallelamente viene letto il Barocco proprio in quegli anni, come viene acclimatata la critica tedesca, come viene ricevuto o non ricevuto, tardivamente ricevuto Burckhardt da noi e così via. Cioè è veramente un grosso problema, come per esempio si trovino molto più adagio, per ritornare a un esempio piemontese, con il Medioevo la storiografia sabauda, che non ha avuto Rinascimento e per cui ha facilità, come nel Tesauro, a risalire dalle, diciamo così, dalle origini medievali direttamente al 600, che non invece la storiografia toscana e la storiografia toscana, ma anche appunto la storiografia in qualche modo che ha fatto del proprio vessillo di interpretazione culturale il convergere all'unità italiana, e che si trova a doversi confrontare con quel nucleo solido, importante e variamente europeo che è appunto l'umanesimo e il Rinascimento delle signorie e delle corti. Cioè c'è obiettivamente una difficoltà ideologica oltre che di periodizzazione. Certo, andando a studiare allora queste cose molto a spicchi, quasi direi anni 60-70, anni 70-80 e così via. Cioè qui è il problema comparativo sulla periodizzazione, poi quello di sezioni cronologiche diventa molto urgente. Però certo che da questo punto di vista è veramente importante almeno il termine di contrasto e di paragone. Ovvio, non so, bisogna un pochino chiedere bisogna un po' chiedere se volete ancora continuare a fare domande a Carlo Ossola o se io devo rispondere direttamente. bisogna un po' vedere quante domande ancora ci sono. No, perché... risponda adesso, no? Quindi facciamo un po' sì, di... va bene. Io direi che prima bisogna insistere sulla parola che voi tutti scegliete, leggere il Medioevo. Ho usato una metafora, si usa una metafora, leggere, e anche la periodizzazione è dito un problema di lettura, ma leggere il Medioevo tedesco implicava veramente la lettura di lingue che più non si conoscevano. Quindi qui è anche non soltanto il problema di periodizzazione di per sé diverso tra Italia e Germania o in Europa comunque, ma che il fatto della difficoltà della lettura è reale. Cioè il Mittelhochdeutsch, l'Althochdeutsch, la lingua come il celtico, era lingua che non si leggeva più. L'immagine, ecco perché dico l'iconografia, è decifrabile, connotabile, anche se peraltro non corrisponde alla parola. Questa è la difficile scissione in quella che si chiama semplicemente e metaforicamente lettura. Non lo può essere. Ecco perché, soprattutto nell'idea del Medioevo, è su una ricostruzione filologica, per esempio a cui Goethe dava la sua simpatia, è un'invenzione che irritava, per esempio, Goethe. La ricostruzione filologica dei monumenti, per esempio l'edizione del Nibelungenlied, è una cosa diversa dal trasporto iconografico che la memoria collettiva della coscienza sociale ha di certi dettagli, di simboli o di immagini. Ecco che qui è la cosiddetta interpretazione, forse per i due piani, si deve servire non più di una disciplina, ma di tutte quelle che i tedeschi chiamano Hilfswissenschaften. Soll ich Deutsch alles sagen, wiederholen? Nein? No. Gut. Posso aggiungere ancora una piccola cosa a proposito? Direi che a questo riguardo la coscienza che ha il Carducci si potrebbe, di questo problema, è quella che egli esemplifica nella satira contro lo Zendrini, cioè a un Heiniano d'Italia, quando egli dice che in termini quasi alfieriani, Arrigo Heine crollava la bionda chiome, dai tedeschi venti le sue strofe gittava, no? Che è un po' un termine virgiliano della Sibilla di disperdere le sentenze ai venti, ma più interessante è questa endia di le furie e le grazie della prosa. Ecco, direi che in qualche modo qui Carducci vorrebbe essere colui che conclude idealmente una giunzione, peraltro insomma impossibile, al Fieri Foscolo, le furie e le grazie, ecco, questa sorta di rivisitazione che vorrebbe essere nello stesso tempo, è un progetto molto ambizioso che insomma, è difficilmente percorribile e che il Carducci distribuisce nell'arco stesso dei titoli delle proprie poesie, insomma, no? Dove percorre tutto, dai titoli classici a quelli barbari, appunto. Ma qui mi pare un'endia di significativa, le furie e le grazie della prole, insomma, Alfieri più fosco. Ja, ich möchte zuerst Frau Kollegin Rita Santini auch, glaube im Namen aller zu sprechen, wenn ich ihr sehr, sehr herzlich danke für diesen Vortrag, den sie außerdem so wunderbar illustriert hat. Ich bin in meinem Nebenberuf auch Kunsthistoriker gewesen und ich weiß, dass diese hier von ihr ausgewählten Bilder außerordentlich versteckt sind. Das ist also mit Ausnahme der ersten, also des Caspar David Friedrich. Es war also zu 90%, wenn nicht mehr, mir jedenfalls völlig unbekannte Bilder, die wirklich mit besonderer Fähigkeit und mit besonderem Spürsinn ausgesucht worden sind. Und ich möchte ihr dafür, glaube ich, sehr herzlich danken, dass hier der Fluss der Worte einmal durch eine schöne, durch wunderbare Folge der Bilder hier illustriert worden ist. Dann möchte ich vielleicht auf etwas hinweisen, was ich hier schon in der Pause gesagt habe, dieses Bild von Rudolf und dem Priester, das Sie gezeigt haben, ist von Ford, ne? Ford. von vorne. Ja. Ja, da ist ja das Eigentümliche, dass nicht, wie Sie mir gesagt haben, Sie oft bei Kunsthistorikern lesen können, ja, das stammt von der Ballade von Schiller. Ja, es stammt schon dann, ja, ist berühmt geworden durch die Ballade von Schiller, aber das ist eine Legende, eine habsburgische Legende des 14. Jahrhunderts, kurz nach der nach dem Königtum Rudolfs ist diese Legende aufgetaucht und sie ist von den Habsburgern ja durch Jahrhunderte immer als Beweis dafür angesehen worden oder als Begründung, dass die Habsburger zum ersten Amt der Christenheit berufen sind, wegen dieses Demutsakts ihres Primus Aser, ihres Begründers. Und ich habe hier herausgeholt, dass, glaube ich, die älteste Darstellung, jedenfalls die älteste mir bekannte Darstellung dieser Begegnung Rudolfs und des Priesters, und das ist im Zeitalter der Gegenreformation, und zwar in Florenz. Das ist, hier sehen Sie, der Rudolf trägt natürlich einen Spitzbart und einen Spitzenkragen und Stulpenstiefel. Das ist von Matteo Rosselli gemalt worden und befindet sich in der Villa del Foggio Imperiale vor der Porta Romana in Florenz, was heute ein Educandato molto famoso ist, della Santissima Annunziata. Und dort hat die Witwe von Cosimo II. Und Schwester Ferdinands II., das ist das Wichtige, dass sie die Schwester Ferdinands II. War, hat dort verschiedene Zyklen, christliche Heldinnen, christliche Kaiserinnen, also absolut feministische Zyklen, wenn Sie so wollen, christliche Märtyrerinnen, Frauen des Alten Testamentes, Jud, Rudit und so weiter. Und einen Zyklus dann, das ging vor allem gegen ihre Schwiegermutter, die Französin war, die Glorie des Hauses Österreich, Casa d'Austria, als, wie es in einem dieser Verse, unter allen stehen hier Verse drunter, heißt, dell'Europa sostegno e della fede. Und bei diesem steht drunter, lascia al sacro ministro il suo destriero e al il gran Ridolfo e a Dio serve a piede, guarda il ciel, la bell'opera e per mercede lo innalza al soglio del romano impero. Das ist also hier diese Beziehung, und diese Darstellung wird dann im Zeitalter der Frühromantik und der Kämpfe gegen Napoleon und nachher immer wieder gemalt. Der Erzherzog Johann, der hier oben in Jena begraben liegt, hat seinen Kammermalern, die Romantiker waren schon, auch von Karolsfeld und andere, hat er immer wieder dieses Thema gestellt. Ich kenne allein, glaube ich, fast 10 Darstellungen immer von dieser Szene, die also hier sozusagen eine Rechtfertigung des Anspruchs auf den ersten Posten der Christenheit ist. Dieser Zyklus ist 1622 gemalt. Und ja, ja. Er ist 1622 gemalt, und das letzte Bild ist der Sieg in der Schlacht am Weißen Berge, also wo hier die Verherrlichung des Hauses Österreich im Kampf gegen Hetzer und Rebellen. Tirol ist zum Beispiel die Eroberung von Kufstein dargestellt durch Maximilian, der auch einen Spitzbart trägt und so weiter. Jetzt ist vielleicht hier herumgehend. Gehen wir mal ein bisschen rein. Ja, ich wollte vor, mir nutzte denselben Nazarener, die Sie gesehen haben, mit der altdeutschen Feste. Das ist der Grund, warum ich vorgewählt habe und nicht einen anderen. Allerdings ging es um Mittelalter, und ich wollte ja in dem Bild vom vor diese besondere Umsetzung der Kostüme, der Zeichnung nach italienischer Renaissance-Art zeigen. Und es geht mir nicht eigentlich um die Legende. Nein, aber es ist ja und das deswegen. Sonst, ich glaube, in dieser Hitze hätten sie mich erschlagen, wenn ich also 10 Rudolf von Habsburg noch anschließend gezeigt hätte. Aber ich bin natürlich sehr dankbar, dass ich den Rosselli wieder gesehen habe oder gesehen habe. Andere Fragen an Frau Ritter-Santini? osservare come il prescelto annunciato dal tema, la coppia cavaliere e dama, come appunto oggetto dell'indagine, ha operato, e lo si dice molto positivamente, forse uno sfondamento nella direzione dell'antropologia. Quindi vorrei da un lato chiedere alla signora Santini se, cioè, quali conseguenze fino in fondo saremmo quasi ad arrivare fino al 1900 almeno, e quindi dalla Chiesa alla cultura del decadentismo tedesco, anche a tematiche come la rappresentazione della donna, restiamo in più in macca, la moda rinascimentale. Le sequenze hanno soprattutto i dati di cultura. L'altra cosa che voglio provare è se non si crede o non si pensa che l'immagine virtuale possa essere servita, l'immagine virtuale che c'è quella di l'educazione cellulare, anche non solo alla realtà e all'utenza proprio di sponda, una zeit logicale, di essere cercata, ma fortemente anche a lei. E qui vorrei citare la cattura di Halle, altre volte dipinto da Fallinger, quando, cioè, molto volutamente sfruttando le aperture che sono state, che è arrivato fino a Rothko. Ecco, tu non puoi dietro da Rothko, torno a un grosso artista tedesco-americano, un Fallinger, e mi chiedo se questo ciclo, per esempio, della cattura di Halle, non rappresenti un medioevo arrivato ormai a sostenere, in modo anche molto storico, le esperienze dell'astrattismo. Soll ich übersetzen? Nein. Se mi date tempo, è un po' difficile rispondere in questa maniera. Da un lato, usando la teoria di Rosenblum, peraltro, che fa risalire la pittura astratta americana ai cieli di Caspar David Friedrich. Dall'altro, usare proprio per la pittura astratta americana un sostrato ideologico. Mi sembra un'operazione difficile. Ti posso rispondere che Rosenblum e in parte i più avanzati critici americani ritengono davvero che il cielo di Mönch am Meer sia la base, perlomeno la suggestione ottica da cui si muovono i campi, di grandi campi decolorati che arrivano a Rothko. Purtroppo l'idea non è mia, è di Rosenblum, e insisto a dirlo, mi piace molto, perché secondo me proprio da Friedrich non si muove soltanto la pittura astratta americana, ma anche l'idea di quello che è la figuratività. Il Friedrich che ho presentato io era molto più, se vuoi, oggettivo, gegenständlich. E questo legame però tra il romanticismo nordico tedesco e la modernità, a questo credo io, cioè non credo al legame tra cronologico come viene rappresentato, ma invece ad un legame che salta alcune parti del tempo e si rifà all'indietro, appunto, a questa idea metaforica, perché se tutto è metafora, se metaforizziamo nella parola e nell'immagine, l'arte moderna si rifà alle metafore avanguardiste di questo periodo e non, per esempio, all'espressionismo, di questo sono convinta. Ecco perché sono in realtà, secondo me, la cattedrale di Feininger non si rifà a modelli espressionisti, ma si rifà certamente a certe strutture, a Hoehme, e non ho fatto vedere Hoehme e Oliver semplicemente per due modelli, ma perché in realtà la loro modernità continua. Nelle immagini emblematiche che ho scelto, credo che si tratti di una modernità che implica appunto esperienze più tarde. Per quello che è la cosiddetta apertura antropologica del rapporto fra donna e cavaliere, Carlo mi ha detto che la mia lettura era un po' femminista. Non lo nego, forse può essere così. però ho e non potevo in così breve tempo continuare a leggere o a portare citazioni da quelli che sono i testi degli ultimi decenni della letteratura tedesca, per esempio i testi di Schnitzler o addirittura la più emblematica, quella che è il Liebeskonzil di Oskar Panizza, dove appunto il diavolo va a cercare una figura che porti la corruzione in Italia, la corte papale, non sa come sceglierla, ne fa la figlia di Salomè, quindi completamente diciamo distante dal tempo, e la presenta in una assoluta astrazione di tempo, ecco questo insistevo, cioè senza attributi storici. Di fronte ci sono due correnti in questo tempo, di fronte alla storicizzazione, basta pensare ai miti di Lucrezia Borgia e tutta la letteratura europea, da Conrad Ferdinand Meyer ad Annunzio, e dall'altra parte invece alla opposizione di una figura femminile che non è storicamente identificabile, mentre identificabile è il personaggio maschile. Che cosa ci sia detto? Forse lo scriverò dopo, non lo so. Credo di scriverlo, spero di scriverlo. Certamente in questa apertura in cui, come in Friedrich, diciamo c'è una distinzione precisa fra chi, diciamo in tedesco, è Träger an der Kulturwelt, cioè è l'uomo che politicamente, socialmente si ingaggia e non la donna. E quindi a lui è affidato il connotato di riconoscimento storico. Come nell'illustrazione della Lenore, tranne Blake, il cappello a tre punte della guerra dei sette anni lo porta il cavaliere, e così è il cavaliere anche di Horace Vernet, anche quello di, per questo ho scelto solo questa, molte altre potrebbero essere, però si vede sempre che giustamente corrisponde alla realtà sociale, è il cavaliere che resta tale, per non parlare poi di quelle che sono i giochi della pittura, come tu ricordi, alla MacArthur, la pittura viennese, peraltro c'è una bellissima raccolta di allegorie del Medioevo a cui ha partecipato anche il giovane Klimt, pubblicata a Vienna nel 1882, dove l'allegoria del Medioevo ist eine Königin, mit einer Rose, mit der Bibel, così descritta, però naturalmente sistema allegorico. L'allegoria è più nuda della storia, bisogna ricordare, è più nuda della storia, e quindi forse la figura femminile, appunto perché è sempre usata dall'allegoria, è più facile da essere spogliata, almeno io ritengo che l'allegoria sia il modo, sia la figura di confronto, l'allegoria è femminile, e quindi è solo legata a certi possibili dettagli, è facile isolarla dalla storia, e quindi la figura femminile che è allegoria viene spogliata anche più tardi, credo. Vorrei solo aggiungere che Träger significa portare un fardello, che le armature sono molto pesanti, e che Kipling definiva il colonialismo di white man's power. White man's power, è indubbio, anche la spada è pesante. Ich würde gern, verzeihen Sie, eine Zwischenfrage stellen. Sie sprachen von der Kathedrale von Halle. Auf Deutsch heißt Kathedrale Bischofskirche. Halle hat keinen Bischof. Alle italienischen Städte haben einen Bischof. In Halle steht die Marktkirche. Die hat zwei Türme, die heißen die Hausmannstürme. Daneben steht ein großer Nicht-Kirchturm, der Rote Turm. Und was Feininger gemalt hat, ist die Marktkirche und der Rote Turm. Nicht die Kathedrale. Und Sie haben von der Kathedrale in Frankfurt gesprochen, die gibt es auch nicht. Die heißt ja, Bartholomäuskirche. Ja, aber die heißt also von Olivier, von dem Maler. Dann hat er es falsch. Ja, bitte, ich kann auch nicht die Maler korrigieren, das kann ich nicht. Herr Kadini. Io ho qualche dubbio a porre, poi non so se è una domanda, probabilmente non è una domanda, è un dubbio esposto a voce alta, però mi conforta quanto ha detto Busatelli proprio a proposito di Schlinger, perché io stavo pensando esattamente più o meno alla stessa cosa, cioè in realtà particolarmente colpito per le cose che ha esposto la signora Ritter, il reiterato appello a una cosa che io conosco così abbastanza bene, molti altri la conosceranno bene, cioè l'idea dell'ultimo cavaliere, che è un'idea che mi sembra martellare proprio tutto l'Ottocento, e tutta la cultura romantica, del resto non solo italiana e tedesca, penso, non so, per esempio a quel capolavoro di mistificazione che è il libro di Léon Gauthier sulla chevalerie, dove la cavalleria è isolata nel modello quasi archetipico della chanson de geste, dove si dice che tutto quello che è avvenuto dopo non è cavalleria. Sì. Dove però stranamente, e qui mi sembra di poter individuare un salto tutt'altro che innocente, dalla storia nella metastoria, perché Léon Gauthier, dopo aver fatto questo discorso, per cui il cavaliere non è nemmeno il cavaliere arturiano, non è, Dio ne guardi, il guerriero alto medievale, non è il cavaliere del Rinascimento, ma è solo il cavaliere delle chansons, cioè il cavaliere dell'undicesimo, dodicesimo secolo. Dopo questo lui dedica il libro La Chevalerie, che è dell'84, cioè dell'anno della crisi del Tonchino, lo dedica a Don Chisciotte, cioè a questa figura metacronica, metastorica della cultura occidentale, e lo sottodedica agli uomini che stanno costruendo l'impero francese, certo, e lavando quindi naturalmente che cosa? L'onda del 1870, e quella è la versione, diciamo, della destra cattolica francese, la versione anche revanchista di un certo tipo di cultura che peraltro ha un dubbio valore, il libro di Gauthier, peraltro un grandissimo libro sotto certi aspetti. Ecco, il mio problema era un po' questo, e non saprei bene come collegarlo al solo 800, perché mi sembra che il tema andrebbe veramente trattato con gli strumenti dell'antropologia culturale o dell'antropologia storica. Perché in realtà i cavalieri presi a modello sono sempre stati presi a modello in quanto ultimi cavalieri, perché per definizione la cavalleria non è più del presente, sì, ma questo non è, mi collego anche a polemiche recentissime, se volete, anche proprio di questi ultimi giorni, e per definizione la cavalleria è qualcosa di morto, il peso dell'armatura è anche un qualcosa che poi viene usato anche nella simbologia della cultura industriale, molto spesso il cavaliere con tutta una serie di valenze. Però ti interrompo, si potrebbe citare Calvino. Appunto, sì, Calvino. Sì, cioè, la recente pubblicità per automobili. Il tema del cavaliere che non c'è più, a parte la sì, o gran bontà dei cavalieri antichi. Sì. E antichi, anzi, scusatevi, a parte quello, è già un tema, il libro di Bovra sulla poesia epica lo presenta come uno dei leitmotiv della poesia epica. Sì. Noi, dice Omero, e non ricordo più quale libro dell'Iliade, noi non saremmo più capaci di sollevare quel masso, eccetera, che Aiace prende e getta contro le postazioni nemiche, perché lui è un uomo del passato, lui è questa specie di Edgar Ritter che, essendo eterno, in fondo non si pone in nessun luogo. E allora il collegamento con la Lenore in fondo viene automatico ed è anche un pochino allarmante, cioè in fondo è il cavaliere che torna dal passato e torna sempre per seminare morte. Sì, sì. Pretende tu a quando Perceval i cavalieri nel bosco li scambia per angeli, quando poi torna dalla madre chiede ma chi sono questi angeli, la madre lo abbraccia e risponde io prego il Dio che tu non abbia visto quegli angeli di cui si dice che toccano, che uccidono tutto ciò che toccano. Questo è veramente forse il dark side della cultura cavalleresca, dove c'entrano tutta una quantità di cose. Ho lavorato su di questo per una forma mista di cavaliere, quello che non si sa se è paladino o rinascimentale, e ovunque c'è questa terribile ambiguità della celebrazione di virtù che corrisponde alla non virtù. L'ultimo. La morte di Baiacco, il fiore della cavalleria, muore sempre, altrimenti muore, non sa, l'unico attimo, ed è per quello con questo volevo insistere, l'ho portato solo la Lenore, è la Jungfrau Befreiung. L'unico luogo, diciamo, l'unico topos in cui ancora, ecco perché io ho portato la Lenore e non tutto l'altro filone, che peraltro sarebbe stato facile e quanto mai suggestivo, ma proprio non volevo fare questo perché vi volevo lasciare, volevo appunto presentare l'ambivalenza di chi è l'ultimo e ritorna in questo modo. E esiste o non esiste, cioè l'ultima immagine era quella su cui volevo insistere, ma il tempo, cioè la tomba, l'armatura, all'interno dell'armatura il teschio e la donna terrorizzata del salto del cavallo oltre la tomba, cioè, e non è tedesca, appunto, era il quadro che aveva entusiasmato Heine, il quale peraltro lottava contro la moda medievista in Germania. Certo è un tema affascinante, si può adesso ricominciare da tutte le parti, perché... Io volevo, se possibile, fare una considerazione rivolta a entrambi i relatori, che è molto basso profilo, ma riprende degli spunti che mi pare di avere colto nelle loro due relazioni. Sono così marginali forse, ma sono comuni. Non so, per esempio mi ha colpito il fatto che Ossola abbia ricordato questa commistione nella fase, di Carducci, di spirito tedesco e elemento siracusano. Questa cosa l'ho rivista esattamente nel ritratto di Overbeck, dove chiaramente potrebbe essere benissimo Siracusa, certo. Il mare che c'è dietro e l'elemento germanico. Quindi questo è un fatto, probabilmente si potrebbero trovare tanti altri elementi comuni di questo tipo, però è un fatto di commistione, di congiunzione proprio, quasi archemica, insomma, no? Di congiunzione buona, insomma, che invece mi pare nel campo storiografico che noi abbiamo esaminato ieri più difficile da riscontrare, perché in fondo ieri, esaminando l'incontro della storiografia italiana e di quella tedesca sul problema delle città, sul problema dell'impero, sul problema della cavalleria, noi abbiamo notato sì che c'è una complementarietà obbligatoria quasi fra i due mondi, ma è una complementarietà, una congiunzione raramente buona, raramente amichevole, raramente amica, è più spesso una congiunzione conflittuale in cui forse ci sono molti riferimenti che potrebbero essere portati. Gli studiosi tedeschi vengono in Italia con spirito abbastanza combattivo e quindi quasi non dirò rapinatorio, ma insomma con la speranza di trovare i nostri tesori che i poveri italiani non sanno in nessun modo apprezzare. Ci sono molte citazioni in questo senso, da Niebuhr a Curtius in giù, Grimm, no? E quindi ecco, direi qui allora tra il leggere, tra l'Ottocento letto, cioè della storia, l'Ottocento visto o sentito, cioè quello, diciamo così, dell'arte o della letteratura, una cosa in comune, certo la commistione tra i due mondi, ma due modi diversi. Una commistione amica, mi pare, di più sotto il profilo artistico-letterario, una commistione invece più concreta, più, sto sempre, mi viene sempre in mente, più realpolitisch, invece dal punto di vista storiografico. Questa era la prima considerazione. Il secondo punto che c'era in comune, mi pareva, tra le due relazioni, è ovvio, insomma, è il fatto che appunto Ossola aveva esordito dicendo questa ambivalenza tra una indissolubilità storica tra la Germania e l'Italia da una parte, un destino assolutamente non reversibile di vita comune, di comunanza, ma anche la irrealizzabilità, la impossibilità altrettanto storica di realizzare questa comunione, no? Mi sembrava. Sì, la citazione Engeliana. Che è la citazione Engeliana, che però gioca dentro continuamente. Ecco. Ora, quindi, cosa significa questo? Significa forse la stessa cosa che mi pareva dicesse la Rita Santini, addirittura con la primissima immagine di Friedrich, cioè una, che cosa? Una proiezione in avanti e contemporaneamente invece una storia che appunto è profezia del passato. Di nuovo un mondo che non, un, cioè, di nuovo un rapporto fra Italia e Germania che è storicamente vissuto, questi addirittura si trasferiscono a Roma per dire, vivono lì, oppure ecco, è storicamente vissuto, ma però è altrettanto storicamente incompibile, irrealizzabile, non può compiersi fino in fondo, no? Quindi questo essere fuori del tempo, che di nuovo è proprio forse del versante artistico-letterario, ma sul piano invece storiografico che abbiamo visto più ieri, al contrario direi, abbiamo visto l'incontro fra Italia e Germania sul piano storiografico, spesso legato duramente, condizionato duramente da concrete esigenze storico-politiche proprio, quindi dipende, se la sinistra va al potere, allora l'atteggiamento nei confronti della Prussia, ad esempio, non lo so, quindi anche da questo punto di vista, due livelli diversi. Se noi studiamo il Medioevo nell'Ottocento dal punto di vista della storia della storiografia, abbiamo rispetto all'essere dentro o fuori del tempo un riscontro, siamo dentro al tempo. Se invece noi lo studiamo, questo rapporto dal punto di vista storico, artistico, letterario, sembrerebbe siamo fuori del tempo. Come queste cose che sono improbabili, è improbabile che possano esistere nel quadro culturale complessivo che noi cerchiamo di ricostruire, livelli così distanti e contrapposti di lettura dello stesso fenomeno. Come allora si può tentare di portare unità a queste cose? Niente. In particolare alla signora Rita Santini invece volevo appunto chiedere un'informazione in più, ma che forse è molto banale, relativa a Dürer e al fatto che effettivamente questa importanza di Dürer già dal 28, bellissima quella citazione, Dürer, sulle lunghe figure, bellissimo insomma, però già dal 28, ecco, come si lei pensa che si possa legare con la straordinaria fortuna che mi pare Dürer abbia avuto anche in campo, cioè più storico-politico. Ecco, io ricordo ad esempio che nel 1800, mi pare che in occasione cioè del centenario di Dürer nel 1871, se non mi sbaglio, la festa a Norimberga cadesse per caso immediatamente dopo, nei giorni successivi, la vittoria di Sedan. E questo ha creato una improvvisa, non voluta, però oggettivamente realizzatasi, concentrazione di spiriti, di interessi, tanto che le celebrazioni di Dio sono immediatamente diventate un momento altamente patriottico e molto importante anche sul piano, credo. Sì, altrimenti lo dimentico. La prima festa di Dürer è stata nel 1818. Gli artisti del Caffè Greco a Roma, i Nazareni, perché la chiamarono il compleanno di Dürer il loro Wartburgfest, quindi nello spirito assolutamente Deutsche Nation, e fecero una festa am Grabe di Dürer. Quindi praticamente dal 1818, in cui dal Caffè Greco, da Roma, nasce la decisione di celebrare ogni anno Dürer, sono 10 anni dal momento in cui, naturalmente, nel 1828 le grandi feste presentano i trasparenti, quelle che io vi ho fatto vedere, no? Cioè ci sono 10 anni in cui i Nazareni hanno tempo di fissare il culto di Dürer, no? Non è, quello che poi viene dopo è molto meno importante. Comunque diciamo lo spirito dei Freiheitskriege, quello che interessa, è il Wartburgfest che inizia il culto di Dürer. Purtroppo il professor Elze mi ha detto che si può parlare di tutto, che si può andare al di là di tutto parlando, non al di là di un'ora. strada. Posso dire solo una cosa di questo quadro di Overbeck? Credo che ci sia un disegno originale di Ford che voleva di farne un trittico di questo, e cioè che dalla parte della donna italiana stesse Raffaello e dall'altra Bülow, tutte e due pregando. Ma la grande opposizione, sentiamo il momento in cui Dürer e Raffaello vengono contrapposti, il romanzo di cui vi ho parlato è Franz Sternwald, Van der Rohe, no? E il dog di Wackenroder, 1796, nel Wackenroder è diciamo la contrapposizione di Raffaello e Dürer, e poi dopo vi ho detto dal 1796, solo la morte di Wackenroder di fondo costringe Tieck a continuare da solo e a decidersi per Dürer, Sebastian, l'allievo di Dürer, eccetera. Comunque diciamo, per quella che è la ricezione di Dürer all'interno, che si lega poi ad un fenomeno importante per gli storici e per i sociologi, la fondazione dei Kunstvereine. I Kunstvereine, nel nome di Dürer, si fanno risalire esattamente a queste celebrazioni. Per cui i Kunstvereine, che in fondo avranno poi, e nello stesso tempo, ecco perché ritorna questa forma di esotismo, l'unico modo di capire perché le due cose possono andare insieme. Bene, i Nazareni sgraditi a Goethe, però graditi alla corte di Prussia, ben visti dalla corte di Baviera, diventano professori alle accademie tedesche. In questo modo, quello che era un ideale provocatorio o perlomeno ribelle medievale diventa, come dicono, etabliert, diventa strumento, no? Se non si sa, io ho presentato i Nazareni, diciamo, iconograficamente, non li ho presentati in quella che è la loro storia di ricezione, ma quando quelli che sono superstiti vengono dopo aver dipinto al Casino Massimo i cicli di Tasso e di Ariosto e dopo aver introdotto, diciamo, il culto dell'epica italiana in Germania, vengono eletti professori di accademia, hanno in mano non solo l'educazione dei giovani artisti, naturalmente molte altre, è qui, ecco, che il loro esotismo, come io continuo a chiamare, della confraternita di San Luca a Roma, non è più l'esotismo dell'outsider, ma l'esotismo di un outsider integrato ad una società che lo sa bene usare. E sa bene usare la suggestione che da questi integrated outsider poi deriva. Grazie. Posso la signora Liemann è... Vuoi ancora rispondere al professor Schier, è possibile? Ho due altre persone che vogliono parlare. Wie würden Sie das Nebeneinander von Interesse am Mittelalter einmal auf der Basis von evasiver Haltung, Sie hatten Gautier zitiert, also Interesse am Exotismus auch, und auf der Basis an ganz manifest politischem Interesse am Mittelalter, wie würden Sie das interpretieren, also dieses Nebeneinander, das sich ja zunächst auszuschließen scheint? Semplicemente una brevissima aggiunta alla fortuna all'utilizzazione dei Nazareni. Questo dipinge Italia o Germania in un'orrenda semplificazione. Viene usato nel frontespizio di una rivista, la rivista viennese, che esce nella Milano della Restaurazione, che ha lo scopo appunto di tradurre cose tedesche in Italia, quindi di funzionare in modo politico da raccordo degli intellettuali italiani con quelli. Ja, Sie wollten also wissen, wie diese, was ich jetzt Gautier zitiere, Form der Exotik, dieser Exotismus, zusammen, wie Sie ausgedruckt haben, von? Ja, mehr politischem Interesse politischem am Mittelalter. Also politischem Interesse, ja. Ich würde sagen, man muss zunächst sehen, wer was äußert. In welchem Kontext es steht. Außerdem Goethes Zitat, ich bin kein Mann, kein ausgeklüngeltes Buch, sondern ein Mann oder ein Mensch mit seinem Widerspruch, gilt auch für Maler, für Künstler und sogar für Professoren der Geschichte. Aber ich würde sehen, gerade in der Exotik liegt auch die Suggestion, ein Instrument sagen. Verstehen Sie? Deswegen habe ich von integrierter Outsider später. Wenn also erkannt wird, welche Kraft diese Modelle haben, die können benutzt werden, je nachdem. Es sei denn, jetzt wir haben zwei parallele Lektüre. Ich bin eher für eine, vielleicht für, doch für eine gekreuzte Interpretation, nicht für parallele Interpretation, weil ja alles schließlich doch in eine vorbewusste und also dann exerzierte Macht sich ausdrückt. Nicht? Das, ich glaube, sì, no, una domanda rapidissima di carattere merceologico, lei forse l'informazione l'ha data ma mi è sfuggita. Questi trasparenti alle feste di Getemani, su quale materiale venivano? Tela. Trasparente, i tedeschi dicono trasparenti, cartelloni. Alcuni sono meglio conservati, alcuni peggio conservati. Cioè, per esempio uno. In parte sono distrutti, in parte questi sono la cosa è rarissima perché quasi tutti sono distrutti, anche questi. Però facevano parte appunto di tutto il ciclo della gloria di Goethe, di Dürer, della gloria di Dürer, e soprattutto in un tipo particolare di gloria, no? Ecco come io ho scelto la Andrea. Sono esiti, scusa. Sono editi, cioè c'è una qualche modo sì, sono si trovano in un vecchio libro, ecco, te li posso procurare. No, questo era interessante. Tutti te li posso procurare. Sì, ma la mia era semplicemente una, un tentativo, non dico di risposta, ma di accentuare, anche perché la domanda è naturalmente molto lucida dal punto di vista di sistemazione del colloquio, ma può avere un lato perverso per ciò che riguarda la letteratura, cioè a dire che effettivamente dal punto di vista istituzionale al mutare delle condizioni storiche cambia anche l'ermeneutica, mentre la letteratura naviga fuori del tempo. Ora in realtà io credo che seppure con un'opacità e anacronismo che è tipico dei fenomeni letterari e che anche però la loro salvaguardia, cioè durano oltre l'occasione, c'è il fatto che anche questi letterati, abbiamo parlato insomma di personaggi di prim'ordine, avevano coscienza di queste difficoltà di conciliazione, e una delle risposte possibili al di là delle metamorfosi tattiche carducciane è proprio quella di Graf, cioè dire queste realtà sono conciliabili ma risalendo non né a Italia né a Germania ma a una matrice comune, cioè la matrice, come dire, greco-latino, addirittura quella troiana. E Graf è molto bravo a usare le fonti medievali proprio per corroborare questo. Se ci deve essere unione, queste davvero i matrici che stanno prima e stanno fuori del tempo, e c'è una citazione stupenda di Gotofredo da Viterbo, in cui Gotofredo da Viterbo dice che i due grandi lignaggi germanico e latino erano usciti entrambi da Troia. Carlo Magno, appartenendo ad entrambi, aveva il diritto ad esserne il depositario. C'era una piccola differenza, questo così anche per alleggerire nell'aneddoto, e cioè che i principi di Germania erano più nobili di quelli di Roma, perché per parte di padre e per parte di madre i germani venivano da Priamo, mentre i romani venivano da Priamo soltanto per parte di madre. E il latino è molto bello perché dice «Ec duo continuat conceptus utroque parente», questo è il Carlo Magno, «Romuleus matre teutonicusque patre». Ecco, mentre appunto i latini vengono da Priamo soltanto, come dire, per una parte del costato, ecco. La seconda osservazione, quindi mi pare appunto che lì ci sia un problema di coscienza storica e di uso della mitologia per superare questa impasse. L'altra questione invece era una mia domanda a Lea Ritter ed è questa, cioè effettivamente è molto affascinante e seducente questa idea dell'allegoria, insomma, che dura oltre la storia, la marcatura storica è sul cavaliere, l'allegoria è nuda. Però direi che un po' più avanti rispetto agli anni considerati, mettendo in gioco appunto, come dire, i neoconvertiti, cioè Wismar per esempio, ecco, una delle riformulazioni tipiche di Wismar di questi problemi è nel racconto Anrad, dove il protagonista sale per l'appunto tutti i gradini di una cattedrale gotica, arriva in cima, dalla cima, proprio come un mondo alla rovescia, precipita in un fondo scala, di lì insegue, eccetera, finché si trova in un punto dove una ieratica donna nuda, bianca, trasparentissima, dietro un vetro, continuamente guarda il protagonista con occhi ammagliosi, continuamente con delle tenaglie questi occhi ammaglianti vengono svelti e diventa sanguinolente ed accecata, ed è per l'appunto l'allegoria, non dell'allegoria ma della verità. Sì. Cioè a dire che in ambito, diciamo così, di neoconvertiti o comunque dentro una tradizione cattolica, questo mito della donna, diciamo così, nuda, eccetera, è la marcatura o contigua o sovrapposta, addirittura identificata alla verità, e dunque c'è nuovamente un problema, diciamo così, di considerazioni dialettiche. No, anzi, direi che va insieme. No. Ich, direi invece che vanno insieme, anche se quello che hai detto è nella lettura, diciamo, lettura cattolica. Certamente la idealizzazione femminile, la forte idealizzazione femminile corrisponde anche alla demonizzazione. Quindi questa appartiene a quanto più giovani, studiose più giovani di me, fanno derivare dalla proiezione maschile della Frauenwelt, che è sempre castrante, terribile come la femme fatale, e che fa vedere nell'appunto, e Huysmans forse è il prototipo di questo, la Frauenwelt che rovina, che distrugge, che davanti è attraente ma dietro distrugge. Quindi è anche la Frauenwelt dall'allegoria. Esiste, no, ma lì un piccolo... lei è distrutta, sì, che sì, rinasce. Sì, sì, anche, sì, anche la Frauenwelt. Ecco, quindi questa è una lettura che ha fatto peraltro una giovanissima femminista tedesca. Frauenwelt, femme fatale, così, ma non è, diciamo, non è estremamente affascinante, però questo motivo in realtà è tramandato della Frauenwelt, cioè della donna corruttrice che rinasce sempre per tentare e per uccidere, capisci? Rinasce sempre per tentare e per uccidere, perché è il mito della idealizzazione femminile, fa parte di questo, lo sappiamo, lo sapete tutti meglio di me. Se volete farò anche un'altra volta della Lulu. Appunto, Lulu, che anche Lulu, zu morden unheil zu schaffen ohne dass es einer merkt, senza che uno se ne accorga, no? Fa parte proprio di questi anni, che è spogliata ed è addirittura connotata col serpente nel circo della Lulu di Wedekind e di Alban Berg, poi, no? Quindi, e che ha gli attributi appunto in questa lettura della Frauenwelt, il serpente. Il nome Lulu da dove viene? Lulu è il titolo dell'opera. Non ha niente a che vedere con Lilith. Sì, sì, praticamente è alliterativo, sì, sì, sì, sì. Volevo dire che questa forma, questa lettura non è mia, ma le giovani femministe tedesche se ne sono accorte di scorcio e hanno tentato di illuminare quanto il mondo eredita dal Medioevo nella immagine della Frauenwelt, femme fatale o donna che risorge e distrugge, che io non era la mia questa, non era la mia. Ho tentato di essere forse. Andere. Io posso fare un'altra domanda a Ossola o poi o no? Lascio la sua. Sì, sì, c'è ancora. Chiedo scusa, e questo è anche per il tentativo di riportare, cioè è vero che forzo un po' per cercare di far quadrare i conti, diciamo così, della previsione, no? Di questo incontro. Ti chiederei se questo ottimo rimando che tu hai fatto al tentativo di superare l'inconciliabilità fra germanità e latinità in un pre, può essere applicato anche per capire la abbastanza strana vicenda, o comunque la vicenda che ha l'ideale di Roma intorno a metà secolo e subito dopo l'unità. Ecco, da questo punto di vista io vorrei citare un episodio notissimo che però è utilizzato in maniera diversa, mi è capitato di notare utilizzato in maniera abbastanza diversa nella letteratura, nella storiografia tedesca e in quella italiana, nella specie da Teodor Schiller e da Federico Chabot, quindi non da medievisti ma da... Si riferisce a questo problema della presa di Roma e di che cosa gli italiani poi dovrebbero farne di questa Roma appena conquistata. Ed è, come dice Chabot, il prepotente Mommsen che si rivolge a Quintino Sella e chiede, e questo è questa citazione è tratta invece dal Sella: ma che cosa intendete fare a Roma? Questo ci inquieta tutti. A Roma non si sta senza avere dei propositi cosmopoliti. Questa è la domanda di Theodor Mommsen. E Quintino Sella risponde: a Roma vi coltiveremo la scienza. Cioè, voglio dire questo, che poi risponde l'Accademia del Liceo. Però quello che è importante è il fatto che in questo aneddoto la conciliazione fra mondo germanico e mondo latino si trova in Roma e immediatamente però in subordine nella scienza, che è un fatto tedesco in quel momento, molto più che un fatto italiano, perché la scienza è la Deutsche Wissenschaft, non è la scienza italiana, che non c'è. Tant'è vero che bisogna rifondare l'Accademia del Lincei, mentre le accademie tedesche funzionano perfettamente e già a Roma esistono degli istituti di ricerca tedesca. Non solo, andando avanti e usando semplicemente le note, l'apparato di note di Chabot, che dedica nel primo volume della sua Storia della politica estera italiana un capitolo di più di 100 pagine a questo problema, ci sono una serie di divertentissime affermazioni di contemporanei sul significato che deve avere questa scienza. Il significato di questa scienza è chiaramente di essere contro l'oscurantismo cattolico. In modo particolare questa scienza deve servire, per Alberto Mario, a spazzar via la polvere cattolica, a nettare il sito per un congresso di sapienti del mondo civile nel quale si confermassero tutte le conquiste intellettuali compiute da Lutero fin qui. Questo è un italiano che parla per Roma italiana, rivendicando una funzione futura cosmopolita a Roma, sceglie, secondo la mia interpretazione, una funzione che è tipicamente tedesca, cioè quella della scienza. Ecco, non lo so, anche questo discorso quindi mi serviva per dire: va bene questo salir su per i rami, si arriva a Roma, si arriva al pre-latino, al limite no, non è pre-latino, insomma comunque si arriva al pre-medioevo, no? Però mi pare che quando veniamo nel concreto questo pre-medioevo di nuovo torna a essere segnato da una egemonia, o da una tendenza egemonica, che nella specie a mio avviso continua a essere quella tedesca sull'Italia. Sono un po' contorto, ma portare questo... Sì, fu una soluzione molto più saggia quella di Hitler e Mussolini, che si divisero la Grecia e Roma. Molto pacificamente, assegnandosi rispettivamente le due grandi culture antiche. Ja, ich glaube, wir sollten dann für heute schließen mit dem sehr herzlichen Dank an Frau Ritter-Santini und Herrn Ossola und an alle, die sich an der Diskussion beteiligt haben. Bis morgen früh.